si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati all'appuntamento della domenica dalle 8.30 sino alle 11, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi approfondimenti, ospiti e naturalmente anche con i vostri interventi al numero verde, ma tra poco, un po' più avanti. Vi ricordo i nostri contatti, se volete interagire con noi su Facebook si può fare trattino Radio 24, il nostro account su Twitter invece è @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Ma iniziamo come sempre ogni mattina con una buona notizia. And now the good news. E questa più che altro è una storia, una piccola storia che viene da Ravenna. La signora, anzi una ragazza, Lara Poli, ricevuta in comune per il suo impegno per il verde pubblico. Lei è una cassa integrata, ha purtroppo molto tempo a disposizione, si è dedicata alla cura di alcune aiuole del centro della città che erano state ristrutturate con l'aiuto dei privati e lei insomma le ha portate avanti per mesi grazie al suo lavoro. Una bella storia, il comune l'ha ricevuta. Per ringraziarla, il sindaco di Ravenna ha ricevuto questa ragazza, Lara Poli, che appunto si è data da fare nel tempo libero per curare le fioriere del centro. Insomma, se fossero tutti così, i cassa integrati, forse sarebbe meglio per loro e per noi. Ma naturalmente non ce l'abbiamo con chi nel suo tempo libero non va a curare le aiuole, cioè ognuno fa quello che gli pare. Questa però era una piccola bella storia per iniziare. Iniziamo invece dalle prime pagine dei giornali, dove si parla ancora del caso Cancellieri, poi c'è sempre la questione del tesseramento nel Partito Democratico, le dichiarazioni per esempio del capo della Microsoft Bill Gates che dice internet non salverà il mondo, ci sono notizie economiche anche sul Sole 24 Ore nonostante sia domenica. Ma iniziamo dal Corriere della Sera. Dicevamo l'autodifesa del ministro Cancellieri che martedì parlerà in aula, c'è anche un'intervista su Repubblica, ma iniziamo diciamo dal Corriere. Non mi dimetto, lo rifarei, Cancellieri, il caso Ligresti, è questa la notizia, poi Letta che dice chiarirà ogni dubbio. Il Corriere riporta anche questa testimonianza, il vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sì, dice, mi telefonò, ma non c'è niente di male. Leggiamo, Cascini, che è appunto Francesco Cascini, il vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ricorda questa telefonata che avvenne il 18 agosto. Mi disse di essere amica dei Ligresti, mi segnalò il caso della figlia minore Giulia, dicendomi di essere molto preoccupata perché si trattava di una persona che aveva problemi di anoressia. Da quel che sapeva, le sue condizioni di salute stavano peggiorando e temeva che potesse lasciarsi andare a gesti disperati o di autolesionismo. Da quando si è insediata, si è dedicata con particolare attenzione ai problemi del carcere. Con lei e con il capo della sua segreteria ci sentiamo tutti i giorni. Cioè, il vice capo del DAP dice sì, lei mi ha chiamato per questo, però non c'è niente di male, perché ci sentiamo tante volte anche per altre cose. E insomma, io poi dice non feci nulla in base a questa sua telefonata. Là non si capisce bene se la telefonata è normale, poi lui non ha fatto nulla. È comunque un po' oscura questa vicenda. Sempre dalla prima pagina del Corriere, prima di andare a leggere l'intervista della Cancellieri su Repubblica. Stipendio senza lavoro per i militari italiani, scivolo d'oro di 10 anni. Non vorremmo mai leggere notizie così, però ecco, questo è una non so se è uno scoop del Corriere, è un approfondimento del Corriere della Sera con il giornalista Buccini, Goffredo Buccini, che è andato a intervistare un militare in anonimato che ci dà questa notizia qua. Per i cinquantenni esenzione dal servizio di 10 anni con 85% dello stipendio. In pratica c'è una legge prevista dall'ex ministro della difesa Giampaolo Di Paola, confermata dalla legge di stabilità, credo, del governo Letta, ma comunque confermata, dice il Corriere, da Mario Mauro, attuale ministro della difesa, che consente questo, andare in prepensionamento per 10 anni prima del congedo con l'85% dello stipendio e mantenendo la pensione piena. Uno scivolo d'oro, perché si era parlato di una diminuzione di militari, più tecnologia e meno uomini, era questo lo slogan lanciato dal ministro Di Paola, però poi scopriamo che per fare meno uomini si tengono per 10 anni questi militari senza fare nulla, con l'85% dello stipendio e a pensione piena. L'anonimo militare intervistato dal Corriere dice: mi dica lei se un paese di esodati e precari possiamo portare avanti un testo del genere, è uno scivolo d'oro, come diavolo si fa a spiegarlo alla gente? Già, come si fa a spiegarlo alla gente? Andiamo, come dicevamo, su Repubblica, dove il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri viene intervistata. Ligresti poteva morire, io non mi dimetto neanche per sogno, però poi dice che lei è al servizio dello Stato e qualora ci fosse un problema politico si tirerebbe indietro. Leggiamo: non ho nulla di cui vergognarmi, per cui dimettermi, la mia coscienza è assolutamente limpida e trasparente, però io servo il paese finché ne ha bisogno, ma se devo diventare un peso torno a casa mia dove sto benissimo. Ma che cosa è successo in quella famosa telefonata? Innanzitutto, dice lei, sono amica del medico Antonino Ligresti e chi conosce la famiglia sa cosa vuol dire. Dal rapporto con lui è nato il contatto con quella di Salvatore Ligresti. Ho conosciuto la compagna, ho sentito il bisogno sotto il profilo umano di farle una telefonata perché il marito ultra ottantenne malato era stato arrestato. Non sono entrata nel merito dell'inchiesta. Essere ministro non significa dimenticare l'aspetto umano ed essere un automa, però nemmeno di ricordarselo, dico io, solo per gli amici, l'aspetto umano, perché questa è la sensazione che si ha da questa vicenda. Ancora, e qua c'è un paragone un po' incredibile secondo me, con Marco Biagi, perché lei dice, il ministro Cancellieri, e se fosse morta, se non avessi fatto nulla, i magistrati mi avrebbero chiesto conto della mia inerzia. Non credo che qualcuno avrebbe dato colpa al ministro della giustizia se, come è successo per altri, qualcuno muore in carcere. È morto Cucchi e nessuno ha chiesto conto a nessuno. Non voglio ricordare altre morti per disattenzione dello Stato, ma il caso Biagi se lo ricordano tutti. Io non voglio avere responsabilità, ma che c'entra Marco Biagi uscito dalle Brigate Rosse con una persona carcerata? Ripeto, ricordiamoci semmai del caso Cucchi, caro ministro Cancellieri, mi verrebbe a dire, che è morto in carcere, nessuno è intervenuto perché non era amico di nessuno. Poi ancora a proposito del figlio, Pier Giorgio, che come sapete è stato assunto dalla famiglia Ligresti alla Fonsai e se n'è andato con una buona uscita di quasi 4 milioni di euro in quel periodo. La sua storia è cristallina, dice Anna Maria Cancellieri, tutta la sua carriera frutto delle capacità, io non c'entro nulla. Alla fine il quadro si chiude. Denuncia un attacco politico? Le chiede l'intervistatrice Liana Milella e lei dice sì, lo è. Ci sono persone che hanno motivi di rancore nei miei confronti perché ho sciolto comuni per mafia e fatto pulizia negli enti corrotti. Questo è anche possibile che qualcuno ce l'abbia con lei. Questo non cancella quello che sono le sue responsabilità. È sempre il mio personale commento. È vero che per fare carriera ha chiesto aiuto a Berlusconi? Mai. Fate pure un'inchiesta, non ho mai chiesto niente a nessuno, è un'offesa personale che non accetto. Vabbè, questa è l'intervista di Anna Maria Cancellieri. Abbiamo ancora 2 minuti, chiedo in regia, più o meno, anche meno. Allora, leggiamo il titolo sempre su Repubblica: allarme deficit, l'Italia trema, rischia di sfondare il tetto del 3%, il tesoro blocca i pagamenti ai fornitori, Banca Italia agli istituti di credito dice prestito solo a chi merita. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, notizie sulla legge di stabilità, notizie economiche, corsia veloce per i tagli di spesa. Nella legge di stabilità l'anticipo di una tranche di spending review già per il 2014, ma c'è anche un'ipotesi no tax area a 9.000 euro. Salirebbe la no tax area da 8 a 9 mila euro e poi c'è questo anticipo di spending review, secondo il Sole 24 Ore, potrebbe partire già dal 2014. Ci dobbiamo fermare qua, diamo la linea al traffico, poi c'è l'approfondimento sempre sul Sole 24 Ore con l'inserto culturale. Noi ci ritroviamo subito dopo il giornale radio, a tra poco. La mia indicazione è quella di dare a tutti, gli dipendenti, tutti gli operai, il totale della busta paga, quindi compreso le tratte per un anno, e l'andare in pensione un anno successivo. Lo Stato dovrebbe garantire, per quanto riguarda l'assicurazione, l'INAIL. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, restiamo in edicola, è il momento come ogni domenica a quest'ora di andare a curiosare tra le pagine del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, preparato, cucinato come ogni settimana sapientemente dalle mani di Armando Massarenti, curatore responsabile che ritroviamo. Buongiorno Armando. Buongiorno e buona domenica. Eccoci qua, allora il Domenicale, l'unico inserto culturale, lo diciamo sempre, domenica, insomma, quello che vi aiuta davvero a dare risposta alle grandi domande: chi siamo, dove stiamo andando, insomma, lo fa pubblicando come ogni settimana dibattiti importanti, articoli, interventi di firme autorevoli, ma anche ricordandovi appuntamenti, anniversari, insomma i grandi momenti di svolta della nostra cultura. Armando, oggi partiamo da un simbolo proprio della nostra cultura italiana, un monumento, non so, Leopardi, cosa si può dire di Leopardi? Ma di Giacomo Leopardi possiamo dire che in realtà lo conosciamo paradossalmente troppo poco, cioè lo conosciamo soltanto come poeta, mentre in queste settimane è successa una cosa molto importante dal punto di vista internazionale. Diciamo pure, salutiamolo pure come un evento di portata mondiale, la traduzione in inglese delle più di 4.000 pagine dello Zibaldone leopardiano, e questo è davvero una grande notizia. Raramente ciò che attiene alla cultura è davvero una notizia. In questo caso invece sì, perché è una traduzione importante. Non solo ha avuto un eco enorme nella stampa di lingua inglese immediata, e soprattutto gli intellettuali inglesi e americani hanno capito immediatamente la portata di questo testo, che invece anche in Italia è stata capita poco. Cioè lo Zibaldone è stato sempre interpretato come un testo, tra l'altro pubblicato postumo, pubblicato soltanto nel 1900, ci sono delle ottime edizioni critiche in italiano, ma non è mai stato letto come un'opera autonoma, come la vera opera di un grande pensatore, non tanto di un poeta, ma di un grande pensatore. E l'originalità come pensatore di Leopardi è stata colta da una serie di articoli. Noi abbiamo una nostra inviata molto speciale, Elisabetta Rasì, che è una scrittrice, che ci rende conto, tra l'altro parlando con i due curatori dell'opera, ma ci rende anche conto di tutti gli articoli che sono usciti dal Financial Times, al Sunday Times, al New Statesman, alla New York Review of Books, tutti articoli assolutamente che hanno colto il punto. Noi ne abbiamo scelto uno di questa rassegna stampa internazionale molto bello e molto significativo di John Gray, che è uno dei massimi intellettuali inglesi e che ne fa una lettura davvero penetrante. La lettura che vorremmo che anche in Italia d'ora in poi venisse fatta di questo nostro grande pensatore, cioè un pensatore che va contro il mainstream della cultura italiana, che è anti-idealista, che ha messo in piedi una sorta di filosofia materialista e nichilista, ma senza con questo essere assolutamente distruttiva, anzi cogliendo quanto distruttivo è invece una forma di razionalismo che si sarebbe poi imposta, e lui che aveva previsto in maniera molto chiara, e John Gray rende conto appunto di questo. Per continuare a volare molto molto alto, c'è anche un approfondimento che riguarda la scienza e la storia dell'evoluzione, e anche qua e abbiamo un libro che sarà, e noi consiglieremmo, come siamo un po' in anticipo, ma come una possibile strenna natalizia, un libro riccamente illustrato che racconta niente meno che la storia dell'uomo, la storia dell'evoluzione umana, cioè l'uomo come si è sviluppato nei millenni e nelle decine di migliaia di anni che lo hanno portato alla sua strutturazione attuale. E Giorgio Manzi, che è l'autore, è uno dei più importanti storici e biologi dell'evoluzione umana, e ci racconta nel brano che noi proponiamo qualcosa di assolutamente interessante e affascinante, cioè il modo in cui evolutivamente si è risolto un problema. Noi come uomini, se abbiamo una caratteristica, è quella di avere un cervello particolarmente grande, particolarmente sproporzionato rispetto alle altre parti del corpo, e questo nel momento in cui abbiamo conquistato la posizione retta, siamo diventati bipedi, e ha comportato un problema enorme, perché diciamo che aveva delle dimensioni troppo grandi per poter uscire, per farci nascere. E allora cos'è successo? E questa è una cosa che tutti dovremmo sapere e di cui dovremmo essere consapevoli, di quanto nasciamo prematuri, cioè la scelta evolutiva è stata quella di farci nascere appunto molto molto prima di quando il nostro cervello era pronto. E quindi vediamo che appunto i bambini, quando sono neonati, hanno capacità cognitive molto limitate perché il loro cervello è ancora poco sviluppato, e questo in forza proprio della nostra maggiore caratteristica, cioè quella poi di avere invece un cervello particolarmente grande e particolarmente funzionante, che è quello che poi ci serve per leggere queste nostre pagine. Anche questo troviamo oggi nell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Il prossimo invece argomento dobbiamo per forza ascoltarlo così. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. E parliamo naturalmente di Lou Reed, il grande musicista rocker scomparso, che ci fa anche già sentire la nostalgia di, forse anche Armando, almeno questo è un po' il mio punto di vista, di artisti che oggi abbiano anche questa capacità di unire popolarità e successo con grandi contenuti, perché di lui si può dire che era anche un grande intellettuale. E voi oggi come avete deciso di occuparvi di questo? Ma di, insomma, adesso non esageriamo, non era forse un grande intellettuale, però aveva una formazione letteraria e filosofica che si sente nelle sue canzoni, quindi era soprattutto un poeta, e lo si sente molto bene anche in questo suo modo molto scarno di usare in realtà la musica, però tutta la musicalità che lui ci propone è strettamente legata ad un modo di scrivere versi che a me personalmente ha sempre rimandato ad una visione della filosofia. Una volta avevo anche così escogitato una piccola interpretazione di una canzone, forse non delle più note, Man of Good Fortune, paragonandola ad una specie di esercizio spirituale, una specie di esercizio filosofico, così come lo facevano gli stoici antichi, cioè sulla atarassia. Però colui che da sempre, e con cui abbiamo anche sempre molto scherzato, mi ha sempre detto di essere un fan, è una persona abbastanza così sorprendente, cioè Francesco Cataluccio, che abbiamo in linea, e che fa, di solito fa tutt'altro, non è un esegeta, non è che fa per mestiere l'esegeta di Lou Reed, però ci siamo sempre ritrovati con questa ammirazione per questo modo veramente molto originale di mettere della riflessione dentro le canzoni. Per giustificare la mia passione con le cose di cui mi occupo, cioè dell'Europa centrale, si vorrebbe dire che in fondo Lou Reed era di origine un ebreo polacco, e quindi diciamo sì, questo inizio me lo ha fatto sentire sempre vicino, ma fin da piccolo, infatti io anche nella cosa che ho scritto per il Sole 24 Ore me lo chiedo, per me rimane veramente un problema, come mai una persona così diversa da me, per gusti sessuali, per modo di vita, per uso diciamo di psicofarmaci di tutti i tipi, cioè io l'abbia sempre sentito vicinissimo, cioè le sue canzoni, anche quando raccontavano storie molto tristi, molto drammatiche, appartenenti a quella New York, diciamo sì, così lontana anche da Firenze, da Sonnato e da Milano, le sentivo invece come se parlassero di me. E questa è una cosa molto interessante che continuerò, penso, a chiedermi, e che forse quando ci vedremo ci continueremo a chiederci, cioè perché quest'uomo che comunque suonava la chitarra nemmeno benissimo, anche se comunque con grande passione, aveva una voce così strana, insomma, era antipatico appunto nei concerti, concedeva veramente poco al pubblico, era poi così invece straordinariamente vicino a noi. Cioè, l'altro giorno la sua ultima moglie, Lily Anderson, ha detto, secondo me in modo molto molto efficace, qual era la chiave della grandezza di Lou Reed, questo suo saper trasformare comunque tutto in bellezza. E questo era il ritratto di Lou Reed da parte di Francesco Cataluccio, lo trovate pubblicato oggi sul Sole 24 Ore nel domenicale. Grazie Cataluccio per essere stato con noi, grazie anche ad Armando Massarenti, che ritroveremo naturalmente domenica prossima. Grazie a voi. Grazie Armando, a domenica prossima. Noi invece Così può fare, ci ritroviamo subito dopo il Giornale Radio, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Se volete interagire con noi, con Si Può Fare, ci trovate su Facebook, Si Può Fare trattino Radio 24. Potete anche cercarci su Twitter, l'account è chiocciola Si Può Fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Tra poco apriremo anche il centralino per i vostri interventi in diretta, 800 24 00 24. Ancora un paio di spunti dai giornali di oggi per partire con la puntata. Il caso Tessere, avevamo annunciato il caso Congressi che riguarda il Partito Democratico, da Repubblica, asse Civati Renzi, non si cambiano le regole in corsa. Quali sono i casi? Frosinone, 3 su 4 candidati alla segreteria provinciale si sono autosospesi dopo casi di tessere gonfiate nei circoli. A Piacenza è l'ultimo caso, alcuni circoli hanno avuto un boom innaturale di tessere con un incremento fino al 177%. Cose analoghe sono accadute a Catania e ad Avellino. Dalla prima pagina invece del giornale, sul caso Cancellieri, abbiamo letto l'intervista a Repubblica all'autodifesa di Anna Maria Cancellieri. La tesi del giornale è che cosa doveva fare la Cancellieri? Doveva fregarsene? O invece ha fatto proprio bene a intervenire per la Ligresti? Infatti la provocazione di Paolo Guzzanti è questa: Giulia, crepi pure, ecco le intercettazioni sognate dalla sinistra. Cioè c'è un dialogo immaginario tra il ministro Cancellieri e il suo interlocutore, nel quale le dice: non me ne frega nulla di nessuno, possano morire tutti carcerati. È questo quello che vuole la Repubblica, i forcaioli, la sinistra, dice Paolo Guzzanti? Non lo so, questa è la provocazione sulla prima pagina del giornale. Ancora una notizia dalla Stampa è questa, ed è invece un'altra provocazione, quella del fondatore di Microsoft, Bill Gates, che contro Zuckerberg dice: internet non salverà il mondo. Il fondatore di Microsoft, intervistato dal Financial Times, avverte i colossi: amo la tecnologia, ma per alleviare le piaghe dell'umanità occorre dell'altro. È certo che amo l'information technology, ma quando si tratta di migliorare la vita, ha detto Bill Gates in questa intervista al Financial Times, si ha a che fare con cose più basiche come la sopravvivenza e l'alimentazione dei bambini. Una intervista che sembra una stoccata a Zuckerberg, il fondatore di Facebook, il cui obiettivo invece dichiarato è connettere il mondo, cambiare il mondo, connettendo, mettendo online quei miliardi di persone che ancora nel mondo non lo sono. E noi oggi, fra l'altro, vogliamo farvi una domanda proprio su questo, per poter partecipare al nostro concorsone, cioè vincere 2 biglietti ciascuno per ogni ascoltatore per la mostra di Andy Warhol, 160 opere a Palazzo Reale, dalla collezione di Peter Brandt. 2 biglietti ciascuno per 3 ascoltatori. Dovete chiamarci e dirci: internet salverà il mondo, sì o no secondo voi, e perché? Le risposte più belle vinceranno appunto i biglietti per la mostra di Warhol. 800 24 00 24. Tutto questo però più avanti, tra poco. Adesso facciamo una pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, gli account di Twitter ve li abbiamo ricordati. Fra l'altro vi ricordo anche questo, che tra poco, tra un quarto d'ora circa, avremo ospite anche il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, con il quale insomma parleremo principalmente dell'emergenza della Terra dei Fuochi. C'è un decreto previsto dal governo per intervenire proprio in Campania su questo. Se avete delle domande da fargli su questo e altri argomenti, ci potete contattare e noi ce le potete mandare, insomma potete mandarci anche sugli sms 349-238-6666, insomma fate come volete, i contatti li sapete, e le domande magari gliele gireremo al ministro dell'ambiente Andrea Orlando. Intanto, a commentare con noi i fatti della settimana, abbiamo il direttore del Messaggero, Wilman Cusenza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, eccoci qua. Dunque, credo che insomma, la cosa da cui dobbiamo partire inevitabilmente sono un po' gli sviluppi del caso Cancellieri, perché insomma c'è l'autodifesa del ministro che dice: non ho nulla di cui vergognarmi, la mia coscienza è limpida. Insomma, il fatto in sé potrebbe anche non essere particolarmente grave, insomma, le condizioni di una detenuta. Lei si è interessata a questo? A me sembra, Wilman, che siano più che altro le condizioni al contorno che aggravano un po' il fatto, cioè la figlia del ministro, il figlio del ministro che ha lavorato per la detenuta di cui lei si occupa, il ministro che avrebbe chiesto in passato favori al padre di questa persona, cioè Ligresti, per la sua carriera politica, però lei dice che non è così, e soprattutto il ministro e la detenuta che fanno parte dello stesso mondo, finanza e politica, e questo credo che faccia fervorare di più le persone. Tu che idea ti sei fatto? Ma che il discrimine tra, diciamo, il reato e favoritismo, il piacere personale, e naturalmente in questo caso mi sembra abbastanza chiaro, cioè il reato non c'è e c'è chiaramente una un favoritismo evidente nei confronti appunto di una persona che chiaramente è potente, una persona che è un imprenditore o ha famiglia di imprenditori appunto vicini al ministro. E quindi, insomma, da un punto di vista sostanziale è più uno scivolone di tipo, insomma, come dire, di forma, che è poi una pecca tale da giustificare, diciamo così, le dimissioni o l'uscita dal governo. Naturalmente poi questo è un fatto soggettivo, per cui se il ministro ne traesse le conseguenze, si dimettesse, da una parte la decisione non sorprenderebbe, dall'altra voglio dire, farebbe contenta anche una parte dell'opinione pubblica. Quindi è un caso oggettivamente complicato. Insomma, se vogliamo paragonarlo a un caso più recente, quello per esempio di Alfano, del Kazakistan, secondo me era molto più grave quello di Alfano del Kazakistan, non tanto perché diciamo in quel caso ci fosse anche appunto fosse stato commesso un reato, ma perché oggettivamente usciva a pezzi l'immagine, diciamo, del coordinamento del ministero e della conoscenza diretta del suo responsabile nei confronti della macchina appunto del Viminale. Quindi questo è quello che penso io, quindi è un caso spinoso, però non sono d'accordo con coloro che stamattina avevo qualche commento e che alla fine, insomma, minimizzano dicendo: ah, ma in fin dei conti che cosa ha fatto, si è interessata alla salute di una carcerata che effettivamente aveva dei problemi molto seri e che giustamente doveva andare ai domiciliari. A parte che se diciamo il ministro dovesse rispondere alla chiamata diretta, per molti casi passerebbe la vita al telefono, sì. Esatto, passerebbe. Poi è veramente odioso, diciamo onestamente, che il fatto che per uno si intervenga, magari perché si chiama Ligresti o si chiama Cusenza, non lo so quello che è, e per invece non si intervenga per tanti di poveri disgraziati che stanno in galera e non hanno certamente le conoscenze che hanno. Quindi, a questo proposito, sì, è chiaro, no? Ma io sono d'accordo con te. Infatti ho trovato, non so se hai avuto modo di vedere, di leggere l'intervista su Repubblica della Cancellieri, ho trovato particolarmente assurdo il paragone con Biagi. Lei dice: ma se io non fossi intervenuta per la Ligresti e lei fosse morta, cosa sarebbe successo? Non voglio avere sulla coscienza altri casi Biagi. Ma cosa c'entra Biagi a cui hanno torto la scorta, è stato avuto un attentato dei terroristi? Semmai proprio nel giorno in cui c'è stata la sentenza civile su Cucchi, forse è il caso da citare, è il caso Cucchi, per cui nessuno si è interessato di lui ed è morto. Quindi io questa cosa qua della cancelliera la trovo francamente incomprensibile. No, vabbè, ma infatti devo dire, io trovo che sia uno scivolone il paragone con Biagi, anche perché insomma sa tanto di citazione di un martire, perché poi poraccio veramente questo è stato Biagi per tutti noi, insomma un cittadino che ha lasciato solo e un cittadino di valore, anche l'autore di una riforma del lavoro veramente avanzatissima, e quindi insomma non lo so, mi sembra un paragone fuori luogo. Non ci azzecca, come direbbe Di Pietro, non ci azzecca, sì, insomma, ma forse naturalmente non è neanche tanto strano a comprendersi, il ministro non è particolarmente lucido in questo momento, insomma non lo sarei pure io al posto suo probabilmente, ecco. Senti, un'altra cosa che è venuta fuori questa settimana riguarda l'Alitalia, no? Che poi insomma tu dirigi il quotidiano di Roma per eccellenza, il Messaggero, e Alitalia a Roma è, ovviamente non se ne può non parlare, ma se ne parlerà credo per diverse settimane tutti di questa vicenda, fino a che non so quali sono le scadenze, entro la fine dell'anno c'è la questione della continuità economica, poi tra qualche giorno ci sarà il Consiglio di Amministrazione, Air France dovrà dire se partecipa o no all'aumento di capitale, sembra più no più sì, qualcuno ha scritto sta giocando al gatto col topo. È spuntata l'ipotesi russa, ci sono indiscrezioni di stampa di questa settimana che dicono c'è una missione dell'Alitalia in Russia, qualcuno dice anche della compagnia aerea cinese, forse proprio il tuo giornale ha scritto qualcosa su questo. Sì. Tu come la vedi, come va a finire? Ma io vedo questo che purtroppo, se dovessimo stare alle premesse, poi anche politiche, soprattutto politiche, cioè di come la politica ha in qualche modo coordinato e diretto il corso delle cose, dovrei essere molto pessimista, perché oggettivamente il danno che si è arrecato con una mala gestione di Alitalia, e mi riferisco, ripeto, alle coordinate anche politiche che si sono date all'azienda, e sono ormai abbastanza evidenti, forse irreversibili per certi versi. Però quello che penso è che mi sorprendono i pareri di coloro che denunciano aiuti di Stato oppure l'errore di uno Stato che interviene, perché, e questo anche qui insomma c'è un discrimine molto sottile, però mi giudizio evidente, cioè quando c'è un'azienda che ha una storia naturalmente anche di carattere pubblico, perché c'è una partecipazione statale in passato, e come l'Italia, e soprattutto rappresenta una bandiera, non a caso si chiama appunto compagnia di bandiera. Alla fine io penso che lo Stato, pur lasciando scegliere il mercato, e che il mercato stesso selezioni ovviamente le compagnie più resistenti, più adatte, più competitive, che quindi offrono i servizi migliori al cittadino, però in qualche modo deve anche garantire che questo stesso paese non venga messo all'angolo da decisioni di politica industriale scellerate, per cui alla fine, che poi è quello che ci interessa ai cittadini, è giusto difendere e quindi intervenire nel momento in cui i cittadini italiani, per poter andare a Pechino, devono andare prima a Parigi e poi a Pechino, è giusto intervenire nel momento in cui uno, per spostarsi e andare in Europa, magari a Londra, debba fare scala ad Amsterdam. Ecco, questo onestamente è da evitare, perché significa non solo disagi appunto, ma questo sarebbe anche il minimo, significa anche una ricaduta economica, una mancanza di centralità negli scambi commerciali, e che penalizzerebbe l'Italia in modo considerevole. È da qui che deve scattare un interesse nazionale di intervento. Detto questo, poi è chiaro che va fatto con rispetto al mercato, va fatto senza che ci siano pretesti da parte delle compagnie straniere. Abbiamo visto il caso di British Airways o di Lufthansa, che hanno pretestato con l'Unione Europea, sì, perché secondo loro c'è appunto si configura un aiuto di Stato per l'ingresso di Poste. Però io penso che l'Italia abbia bisogno di essere aiutata, ma non con sussidi o con prebende che la tengono in piedi. No, soprattutto perché mi lego a quello che stavi dicendo, cioè un interesse nazionale è evidente che c'è, però è evidente anche che bisogna avere degli interlocutori che abbiano un'idea del piano industriale da seguire. Quello di Alitalia in questi anni, da quando c'è la nuova compagnia, è cambiato un paio di volte, si è puntato prima sul corto raggio, poi sul medio raggio, poi si torna a parlare di lungo raggio. È chiaro che se si va avanti così la compagnia non va bene, continua a perdere, quindi non basta nemmeno l'alleanza con un partner di sostegno, che non diventi invece un azionista principale, quindi una vera compagnia aerea. Staremo a vedere anche questa vicenda come andrà, probabilmente le settimane che vengono ci daranno qualche risposta. Vorrei chiederti un'altra cosa invece per quanto riguarda i passaggi, gli snodi attorno al governo Letta, legge di stabilità, le tasse sulla casa che dovrebbero essere aggiustate, modificate, quantomeno messe a punto. Squinzi, il presidente Confindustria, ha parlato nei giorni scorsi di rischio pastrocchio, pateracchio, per quello che sarà poi anche il passaggio parlamentare. D'altra parte, ieri voi pubblicavate le grandi ricette dei grandi paesi per affrontare e uscire dalla crisi, no? La Germania, che ha puntato sulla flessibilità del lavoro, in Inghilterra il taglio della spesa pubblica, in Spagna, la Spagna che sta andando abbastanza bene adesso, taglio degli stipendi privati e riduzione anche dei dipendenti pubblici. E da noi c'è una ricetta che il governo Letta sta portando avanti faticosamente, secondo te, oppure no? Ma il problema è proprio questo. Io penso che purtroppo da noi non c'è questo stesso approccio, e c'è una politica molto più random, diremmo così, un po' non dico casuale perché sarebbe offensivo, ma certamente di corto razzo, di breve periodo, perché quello che manca è appunto un respiro legato alle riforme. Questo governo naturalmente è nato su basi abbastanza fragili, per cui è chiaro che non si poteva porre diciamo così all'orizzonte riforme epocali, però insomma anche un anno e mezzo, anche che il periodo che si sono insomma, posti come obiettivo, 2 anni, quello che è, secondo me è un tempo ragionevole per provare a impostare riforme di una certa importanza. Noi diciamo ieri appunto con quel paginone che tu ricordavi abbiamo cercato di far capire come c'è una tendenza internazionale dei paesi ovviamente più avanzati che sta intercettando la ripresa con anche cifre insomma di rilievo, perché ovviamente sempre considerando che è un post recessione, un'uscita dalla recessione, e appunto l'1,7% del PIL degli Stati Uniti che cresce, no, vabbè, a parte quello del 7,4% della Cina, o l'1,6% del Giappone, lo stesso 0,7% della Germania, lo 0,3% della Francia, che non è un paese che sia molto meglio dell'Italia. Per esempio io sono molto colpito da quello che ha fatto anche la Gran Bretagna, che ha l'1,5% di crescita del PIL, ma soprattutto ha una cura che è quella di questo ministro, il cancelliere dello scacchiere Osborne, che sta dando frutti anche importanti per l'attrazione di capitali. In fin dei conti Londra in questo momento in Europa è l'epicentro della, diciamo, degli investimenti, non solo ovviamente borsistici ma proprio di qualunque genere in Europa, ed addirittura mi ha colpito moltissimo la notizia che i vertici della finanza musulmana si riuniscono a Londra puntualmente, anzi è quella la sede praticamente ufficiale di tutte le riunioni. Cioè, ecco, una centralità che si è ottenuta in base a delle politiche, non in base alla geografia o in base non sarà neanche questa legge di stabilità a ridare all'Italia quel tipo di centralità, però tu dici giustamente, se non ci lavoriamo non avremo mai un po' di linea e di centralità anche nell'economia internazionale. Per esempio la Spagna, uno dice la Spagna risale, sì la Spagna risale perché la Spagna, che però sì, insomma, il PIL all'1,2% in calo, anche se il dato appunto più recente è di una risalita e quindi sta migliorando, cioè sta ha varato insomma una cura a cavallo sui salari e sui dipendenti dello Stato, una cura dimagrante sulla macchina dello Stato, che poi non altro che la spending review, appunto i famosi tagli di spesa che in Italia imbocchiamo da ormai anni, per non dire decenni, e che non arrivano e che sono l'unica possibilità di trovare le risorse per fare appunto sviluppo, crescita, cioè non è che ci sono vie di mezzo, è chiaro che tagliando quelle tagli e diminuisci, rattrappisci un serbatoio di consenso elettorale, tagli una fetta di paese che si regge ovviamente su un sistema economico che è quello diciamo statale, e quindi va incontro a delle incognite tra cui anche la perdita dei consensi elettorali. Ma questo uno statista non può guardare questo aspetto qua, perché questo lo può guardare un partitante da quattro soldi. Ecco, in Italia temo che statisti ce n'è qualcuno, io stimo moltissimo Letta per esempio, ma forse le condizioni in cui opera evidentemente non sono tali da varare un progetto del genere, però ci dovrebbe quantomeno provare, mettiamola così, insomma, ecco. vedremo. Grazie intanto Virman Cusenza, buona giornata, buona domenica, il direttore del Messaggero che è stato con noi. Grazie a voi. Per commentare i fatti della settimana. Tra poco invece avremo il ministro Orlando, mi raccomando, il ministro dell'ambiente, se avete domande per lui scrivetecele, noi gliele gireremo. Intanto un'ascoltatrice, così per iniziare, per rompere il ghiaccio, col numero verde 800 24 00 24, Rosa Maria da Genova, buongiorno. Grazie, buongiorno. Senta, noi siamo stanchi italiani di essere presi in giro anche dal ministro. Il ministro non è accusato di vendetta, cioè per la vendetta della mafia, è mezza Italia che la vuole fuori perché ha commesso una gravissima azione. Io sono stato un insegnante di Stato, quindi io le regole le so, quindi non continuate a prenderci in giro. La signora ha sbagliato gravemente e deve essere dimessa e punita come tutti gli altri. Grazie Rosa Maria, grazie, buona giornata. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori. Come dicevamo, diamo il buongiorno al ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando. Buongiorno. Benvenuto, ministro. Grazie. Allora, parliamo sicuramente dell'emergenza rifiuti in Campania e della questione della terra dei fuochi, perché è la cosa più importante, più attuale, più drammatica anche direi, sollevata, facciamo una piccola premessa, da riaperta questa ferita che però c'è purtroppo da anni, anzi il fatto strano semmai che si sia riaperta adesso con la desecretazione dei verbali delle audizioni del pentito Schiavone alla commissione sul ciclo dei rifiuti del Parlamento di 16 anni fa. Se ne riparla, ma insomma in Campania i cittadini ne parlano da sempre, c'è l'inchiesta per esempio dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che c'è un aumento dei tumori in quella zona, ci sono dati e la cosa incredibile è che non si sia intervenuti in questi anni. Lei ha annunciato un decreto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per inasprire, credo, le pene, poi non so anche per fare che cos'altro. Cosa ha intenzione di fare su questo, Ministro? Sì, io devo dire che non ho atteso francamente queste notizie, nel senso che la mia prima visita al Ministro è stata esattamente in quella zona, all'inizio di maggio di quest'anno, e abbiamo nel frattempo avviato alcuni interventi a partire da un protocollo d'intesa con Ecopneus, che è il consorzio che raccoglie i pneumatici, perché uno dei principali combustibili utilizzati per appiccare questo tipo di fuochi sono appunto i pneumatici abbandonati, soprattutto quelli che derivano dal ciclo illegale della gestione di questo tipo di prodotto, sono quelli contraffatti che poi vengono usati, abbandonati e vengono utilizzati da chi appicca questo tipo di fuochi. Poi ho sostenuto dei finanziamenti ai comuni che erano stati sciolti per infiltrazioni camorristiche nella zona, perché un regolare ciclo dei rifiuti è anche la condizione attraverso la quale si riesce a diminuire gli spazi e i margini di illegalità. E poi ora io credo si tratti di rafforzare l'aspetto repressivo, perché distinguiamo ormai con questo tragico titolo si mettono insieme due fenomeni tra loro diversi, hanno una causa comune che è quella di una sostanziale sospensione della sovranità dello Stato in una zona, ma hanno aspetti diversi, cioè da un lato quello degli interramenti che si sono realizzati prevalentemente negli anni 90 e dall'altro quello appunto dei fuochi e dei roghi tossici. Su quest'ultimo fronte credo che ci sia l'esigenza di rafforzare gli strumenti di intervento per le forze dell'ordine, anche tenendo conto di un'emergenza. Abbandonare un sacchetto, un pneumatico, sì, un qualunque prodotto di rifiuto in una zona come quella non è come farlo da un'altra parte, perché là si è determinata nel corso del tempo una forma di crisi ambientale e quindi diciamo le sanzioni devono essere contemperate appunto a quindi questo tipo di situazioni. Il decreto sarà appunto specifico per quella zona, per quell'area, e che cosa prevederà? Consentirà un utilizzo degli strumenti vigenti dal punto di vista sanzionatorio più intenso, quindi anche possibilità di arresti in flagranza per chi appicca i fuochi, la possibilità di realizzare anche forme di sanzioni anche per chi semplicemente abbandona degli ingombranti, insomma ad altri tipi di provvedimenti che sono stati utilizzati in passato proprio per le zone di crisi ambientale. Quanto aggravate le pene rispetto a quelle che sono le pene già previste? Cioè, perché se si cerca di dare un forte disincentivo, lei dice si fa riferimento a strumenti esistenti, ma ampliandoli, potenziandoli, quanto? Ora vediamo, ora stiamo facendo diciamo naturalmente un confronto che va sviluppato col Ministero della Giustizia, perché noi possiamo fare una proposta e c'è una volontà di arrivare rapidamente al decreto, ma chiaramente deve essere l'ultima parola, deve dare il Ministero della Giustizia su questo fronte. In parallelo vorrei aggiungere, stiamo anche lavorando per una riforma organica dei reati ambientali, perché in questo campo spesso i processi non arrivano a buon fine perché trattandosi di reati di carattere contravvenzionale si prescrivono prima dell'individuazione di un responsabile. È già avvenuto purtroppo nella stessa zona di cui stiamo parlando. Ecco, senta, ma proprio a proposito insomma, di questa riforma, anche dei reati ambientali, però nel caso della Campania, visto che i reati ambientali sono già stati commessi, perché questo è il problema, sono già stati fatti, poi che adesso si continuino a bruciare i pneumatici non va bene sicuramente, ma sono stati... Non sono i pneumatici, scusi, vengono bruciati, i pneumatici servono per appiccare il fuoco, vengono bruciati sostanze tossiche che ancora oggi continuano. Però mi faccia finire la domanda, Ministro, lo sappiamo quello che succede in Campania. La domanda è questa: non è che intervenire adesso sulle pene per il reato è come chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati? Cioè i reati sono stati commessi, poi certo adesso bisognerebbe intervenire per ripulire quella terra, per bonificarla. Su questo versante cosa si sta facendo? Che è la cosa credo che tutti si domandano. Certo, su questo versante è stato recentemente approvato un piano regionale per le bonifiche dalla parte della Regione Campania. Noi abbiamo trasferito decine di milioni di euro in queste settimane per ulteriori interventi e poi naturalmente si tratta via via che si realizzano le caratterizzazioni. Noi stiamo facendo una mappatura dei suoli tramite il nostro istituto di ricerca che è l'ISPRA, sulla base di questo si tratta di rimontare una situazione che purtroppo si è venuta a determinare nel corso di tantissimo tempo e che necessiterà un utilizzo di ingenti risorse. Devo dire che più che problemi di individuazione delle risorse, che a mio avviso possano essere superati, perché credo che i fondi strutturali vigenti e quelli del 2014 potranno essere utilizzati trovando le risorse necessarie. Esistono dei problemi che vanno affrontati di patto di stabilità, perché spesso ci sono le risorse ma non riescono ad essere utilizzate. Questo è un problema che non riguarda soltanto la cosiddetta terra dei fuochi, ma diciamo così incontrano un blocco di cassa, quindi questo è un problema tecnico che credo debba essere risolto a partire dalla legge di stabilità. Ma sul fatto che si cominci a scavare sul serio, a bonificare sul serio, lei ha cioè in grado di comunicarci una speranza, una promessa, una possibilità che qualcosa avvenga, oppure mi sembra al momento non molto? No, guardi, onestamente alcune cose sono già state fatte, purtroppo diciamo così una bonifica fa meno notizia di una scoperta di un nuovo deposito di sostanze nocive scoperto. Quindi da questo punto di vista ci sono stati dei passi avanti, il commissario alle bonifiche ha realizzato delle messe in sicurezza che poi sono il primo passo per evitare diciamo ulteriori danni alla falda e al terreno. E naturalmente stiamo parlando di un territorio che è stato abbandonato perlomeno un decennio. Da questo punto di vista si tratta di... Ecco, ma gli interventi che sono stati fatti, diciamo, per dare una misura, no? Anche una quantità, un'idea, a che percentuale diciamo, del problema dei rifiuti in Campania, dei rifiuti tossici, velenosi, può corrispondere secondo lei? Cioè è stato fatto un passettino, abbiamo fatto un 5%, un 10%, un 1 per 1000, a che punto siamo? No, guardi, io ora non azzardo delle percentuali perché purtroppo noi qua sappiamo, ora senza attendere il singolo pentito, noi sappiamo sulla base dei riscontri processuali, sappiamo quali sono i punti nei quali sono stati realizzati questi tipi di interramenti. Il problema è che non sappiamo qualitativamente e quantitativamente che impatto ambientale possono aver avuto, perché finché non vai a scavare questo tipo di analisi è difficile farla, finché non fai i carottaggi. Devo dire che sulla base della mappatura attuale io penso che si sia intervenuti almeno quando dico intervenuti non si è risolto il problema, ma si è messo in sicurezza almeno le discariche abusive più pericolose. Quindi diciamo così che è stato fatto un passo significativo. Diciamo che ce ne sono altri, ecco, se mi lascia un po' nel vago, altri due o tre da fare, ecco, nel senso che secondo me... In che senso, scusi, nel vago? Perché la dovrei lasciare? Nel senso che non può specificare al momento? No, non, le ho detto che non sono nelle condizioni di una quantificazione percentuale, però insomma le dico che un passo significativo è stato fatto, forse ce ne sono da fare altri due o tre. Ecco, senta, un altro paio di domande, se abbiamo ancora un paio di minuti, su altri argomenti. Per esempio sulla Concordia, no? Dove andrà per essere smaltita? Perché sappiamo che c'è in ballo l'operazione con una società olandese per il trasferimento, 30 milioni di euro l'operazione. Dove andrà però, si sa, la Concordia? Andrà nel porto attrezzato più vicino al momento in cui la nave potrà essere rimossa, quindi sicuramente un porto italiano, questo è una certezza. Dopodiché, se Piombino sarà pronta al momento in cui la Concordia potrà essere spostata, Piombino è in linea d'aria il porto più vicino, altrimenti il criterio da utilizzare è questo, cioè dov'è il porto più vicino che è in grado di ospitare nel momento in cui la Concordia... Se non fosse Piombino, quale sarebbe secondo lei, diciamo, l'alternativa più vicina? Ma ci sono proposti diversi porti e li analizzeremo. Al momento stiamo lavorando su Piombino, dopodiché credo che se nei prossimi mesi ci dovessero creare delle problematicità, si tratta di valutare, ma non sono mancate le candidature, quindi ho letto che diciamo si interpreta questa competizione tra porti come il presupposto perché la nave se ne vada da un'altra parte. Lei dice esattamente di no. Il contrario. Esattamente il contrario. Il fatto che ci sono più ipotesi significa che al limite, se non si dovesse realizzare l'ipotesi Piombino, ci sono altre opzioni che possano essere utilizzate. Senta, un'altra cosa, anche qua velocemente, che poi dobbiamo chiudere, se crede di rispondere velocemente, sul tesseramento nel suo partito, Partito Democratico, in vista del voto dei congressi, eccetera. Lei è di quelli che dice che bisogna cambiare le regole, fermare questo tesseramento abnorme, oppure niente, va bene così, non c'è niente di grave in quello che sta succedendo e il tesseramento deve andare avanti? Guardi, io non penso che ci sia un tema di legalità, sono norme che sono state scelte, però una calmata secondo me bisognerebbe darsela, perché quando si arriva, diciamo, a competizioni così, siamo gente che poi deve militare nello stesso partito, quando si arriva a competizioni così forsennate, i segni, le tracce poi di questo tipo di conflitto e di competizioni così estenuanti poi si riproducono per moltissimo tempo. Quando dice darsi una calmata intende tutti i concorrenti, secondo lei stanno partecipando un po' a questa ipertrofizzazione dei tesseramenti, o c'è qualcuno in particolare? Tutti quelli che lo fanno lo sanno, insomma, io non è che adesso mi metto a dire che ci sono i buoni e i cattivi, dico che probabilmente tanto più chi si assumerà delle responsabilità di conduzione politica del partito dovrebbe preoccuparsi, Renzi, come dire, che questa competizione leggiamo Renzi, sia... visto che è il candidato... Ma guardi, io non sostengo Renzi, quindi non sono, cioè, mi auguro che vincerà Cuperlo, ma non è questo il problema. Chi, diciamo, in qualche modo si candida, che si pone il problema di poi dover prendere il partito il giorno dopo in mano, oggi si dovrebbe porre il problema fondamentale di evitare, diciamo, che questo tipo di competizioni produca delle lacerazioni, dei conflitti. Anche, diciamo così. Però insomma lei non si augura uno stop del tesseramento, o ho capito male? Cioè lei dice diamoci una calmata, però non cosa dovrebbero fare, diciamo, le sedi locali del PD? Uno stop del tesseramento potrebbe essere, diciamo così, la risposta alla mia affermazione. Quindi diamoci una calmata e valutiamo se stoppare i tesseramenti. Se non si ritiene che si debba cambiare una regola, probabilmente si potrebbe anche in modo, diciamo così, territoriale fare una valutazione su come va bene. Bloccare in qualche modo il tesseramento. Va bene, grazie Ministro Orlando, buona domenica, grazie ancora per essere stato con noi. 800 24 00 24, traffico tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Carlo Gabardini, buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. 4 minuti scarsi. Oi là, per fare che cosa? Per salutare, per dire buongiorno, per ritrovarsi. Sono diventato per dire notizie, rapidissimo. Per commentare l'intervista del ministro Orlando, non credo, perché sentiremo gli ascoltatori. Ha detto moltissimo. Mi sembrava impreparato, si può dire, o è una parolaccia? Lo puoi dire, è il tuo punto di vista. Esatto, e invece, il mio punto di poi vista. Ci dirai anche tu se internet salverà il mondo oppure no. Perché... questo non lo so, però devo dire che ho passato praticamente tutta la giornata. Giornata di ieri a ringraziare su Twitter e Facebook per tutti i commenti per la lettera che ho scritto io, pubblicata su Repubblica, quindi devo dire che... Che non c'entra nulla con internet, se salverà il mondo, no, però... Beh, c'entra sì, nel senso che se tu vedi la reazione che c'è stata per quella lettera, la movimentazione che c'è stata, sì, e in realtà anche semplicemente la divulgazione, perché è vero, già Repubblica ovviamente è molta divulgazione, però se uno mette anche una cosa semplicemente su internet, la capillarità con cui si riesce a comunicare un messaggio... Sei più Zuckerberg che Gates, va bene. No, non lo so, ci penso, ma ha molto a che fare con internet in questo senso, perché è molto lì, direi, a questo punto. Se internet salverà o no al mondo, sì e no, e perché 800 24 00 24, si vincono i biglietti, le risposte più belle per la mostra di Andy Warhol. Esattamente. Vai. Allora, notizie: vietati gli sguardi di sfida in piazza. È una notizia che viene da Bari, e dove, diciamo, comitati di quartiere sono anni che tramite petizioni popolari e manifestazioni invocano il rilancio dei giardini della città e chiedono più sicurezza, e il sindaco Michele Emiliano ha emanato un provvedimento che vieta di sostare prolungatamente in gruppo superiore a 5 persone con atteggiamento di sfida, presidio o vedetta, o comunque in modo tale da impedire la piena fruibilità di piazza agli altri cittadini e dai turisti. Noi i comitati li abbiamo anche ospitati, questi qua, però questa cosa degli sguardi è francamente... Infatti sono gli stessi comitati, io credo che questa sia la prima volta in assoluto, sono gli stessi comitati che dicono forse il nostro sindaco ha esagerato. Quindi, cioè li ha presi troppo in parola, è stato troppo attento Emiliano. Vabbè. La cosa che mi piacerebbe è che se ci sono degli ascoltatori di Bari, diciamo, sarei molto curioso di sapere se sono iniziate le multe, perché le multe vanno dai 25 ai 500 euro, e a me interesserebbe uno che cammina lì e dice, lei mi sembra che ci sta un po' sfidando. Anche se un po' di radio lo sguardo non si vede, però sentiamo, da Bari. Ma chiedo se ce lo raccontano, semplicemente se è accaduto. Bambini multati perché giocano a palla. A Torino un gruppo di bambini delle elementari è stato multato perché stava giocando a palla da due vigili urbani che hanno multato i bambini della terza D. Oddio. Ma la cosa che mi sembra più e tra l'altro stavano giocando a palla, neanche con un pallone di cuoio che poteva magari ferire qualcuno. Effettivamente ai giardini Cavour è vietato giocare a palla, però erano dei bambini della terza elementare con una palla a schiuma. Ma la cosa, sono andato a informarmi meglio, la cosa che mi sembra interessante è che non sono tanto questi vigili cattivissimi che sono andati lì, perché io mi immagino due vigili che vadano a dare una multa a dei bambini della terza elementare, o veramente sono proprio delle iene, oppure esatto, sono costretti dai regolamenti. La cosa terribile è che invece sono stati costretti da altri cittadini che prima di loro erano stati multati perché non avevano la museruola ai cani, e quindi c'è questi una guerra tra simpatici, i cani e i bambini. Simpaticissimi cittadini hanno detto: avete multato noi, ora dovete multare anche questi piccoli bambini, altrimenti chiamiamo i carabinieri. Quindi direi che la notizia è più la guerra tra poveri che impazza, diciamo. Ma dove possono giocare questi bambini se non nei parchi, visto che in alcuni cortili condominiali, a notizia, lo sappiamo, a volte non è consentito. 800 24 00 24, ci fermiamo qua, torniamo dopo il giornale radio. A dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, tra poco sentiamo anche i vostri interventi. Prima però vi voglio ricordare quello che ha detto il ministro Orlando sulla terra dei fuochi. In particolare ha detto, insomma, in arrivo un decreto per inasprire le pene per chi brucia i rifiuti e per chi anche solo abbandona rifiuti ingombranti in Campania, un decreto che andrà definito col ministro della giustizia. Poi ha detto: abbiamo dato milioni di euro ai comuni per intervenire, per fare le bonifiche, il problema però, ha detto, è il patto di stabilità che blocca gli investimenti su questo. Poi ancora, che cosa a proposito della nave Concordia, per esempio, andrà di sicuro in un porto italiano, dovrebbe essere Piombino. Poi sul tesseramento del Partito Democratico dice: bisognerebbe darsi una calmata e probabilmente anche chiudere col tesseramento nel PD, e quindi sposa, diciamo, la linea di Cuperlo da questo punto di vista. Vediamo, allora, sì, abbiamo ascoltatori. Ennio che ci chiama da Bari, buongiorno Ennio. Ciao, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Sì. Volevo parlare dell'ordinanza del sindaco e dire che, insomma, Bari... Del sindaco di Bari, sì. Ah, il sindaco di Bari, sono contento che chiami. Sì, io sono di Bari. Sì. Ottimo. Volevo dire questo, che a Bari è un po' difficile interpretare gli sguardi di sfida, perché ce ne sono diversi, tra i quali... un po' ovunque, direi che è difficile. Incrociare lo sguardo tra due uomini e mantenerlo, e se lo si tiene poi scatta subito il... ci sta chiamando, che... Come, scusa, Ennio? è in dialetto barese, che cosa hai da guardare? È quello già lo sguardo di sfida. Cioè, ci stai dicendo che lo sguardo di sfida in qualche modo a Bari è codificato, cioè che se due uomini si guardano negli occhi, dopo un certo tempo scatta il fatto che quello è uno sguardo di sfida, e quindi è incontrovertibile, si può dare la multa. Quindi saranno tutti multati a Bari. Vabbè, Ennio, però io non ho capito, ci stai scherzando, ma quindi non è una cosa seria questa di Emiliano, secondo te? Accetto più che altro il discorso delle vedette, quello sì, quello è una cosa... Ma sono state date delle multe o no? Ci chiediamo. Ennio non lo sa, secondo me, non lo sa. Non ve lo so dire. Va bene, grazie Ennio, vediamo se qualcun altro da Bari è più informato. Donatella da Milano intanto, buongiorno. Oh, vi ricordo anche di rispondere alla domanda se internet salverà o no il mondo, come ha detto Bill Gates, che ha detto non salverà il mondo. Dateci questa risposta perché vincete i biglietti per la mostra di Andy Warhol. Donatella, buongiorno. Buongiorno, io volevo appunto contribuire alla risposta. Per me contribuirà a salvarlo, perché abbastanza semplicemente c'è molto, diciamo, la velocità di connessione tra luoghi e persone diverse è ovviamente notevole, e questo permette scambi di informazioni ma anche controlli incrociati. L'unica cosa che bisogna ovviamente essere consapevoli dei rischi. E quindi comunque la risposta di Donatella è sì, ci salverà per via della velocità di connessione. Diciamo, voleva intervenire anche su qualche tema di attualità, Donatella, o no? Ma sono d'accordo con lei per la cancelliere, soprattutto perché, ok, essere umani, però lei avrebbe, se vuole fare qualcosa, la possibilità di farlo per tutti nella sua posizione. E poi sono d'accordo anche per quello che ha detto sui rifiuti, adesso bisogna attivarsi per le bonifiche, si sa... Facciamo qualcosa, non aspettiamo i soliti tempi. E certo, sono anni. Per l'ex presidente della commissione per i rifiuti, grazie Donatella, Scalia, dice: noi avevamo dato tutti gli atti, tutto quello che c'era da sapere al governo e agli enti locali. Poi i ministri successivi dell'ambiente, Edo Ronchi, Altero Matteoli, i presidenti della regione, che erano Rastrelli, Losco e Bassolino in quegli anni, di centrodestra e di centrosinistra, poi quello che hanno fatto è sotto gli occhi di tutti, se hanno fatto, se non hanno fatto. Direi che è più quello che non è stato fatto di quello che è stato fatto. Sergio da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Prego. Lei... Allora, volevo intervenire alle sanzioni che il ministro dell'ambiente pensava di introdurre per quanto riguarda gli scarichi tossici, poiché credo che nulla si faccia e si distrugge. Per lo... Non sentiamo più Sergio. Sì, vediamo se riusciamo a finire velocemente Sergio, perché la sentiamo male. Prego. Allora, mi chiedevo se fosse possibile risalire perlomeno per gli scarichi tossici industriali alle ditte che hanno prodotto questi cascari. Non sarebbe giusto porre a loro il problema della bonifica oltre alle relative multe? Sì, credo che non sia così semplice trovarli. Andarle a ritrovare. No, sicuramente, grazie Sergio, c'è un problema, che è quello di chi farà queste bonifiche, perché se fino ad oggi abbiamo inquinato la Campania e sappiamo dalle inchieste che ci sono anche aziende del nord che hanno sversato i loro rifiuti in maniera illecita in quelle zone lì, oggi chi è che può intervenire avendo una patente di legalità, di trasparenza, e per fare questi lavori in maniera pulita? Questo potrebbe essere un problema, perché se fino ad oggi hanno prevalso le infiltrazioni camorristiche, non abbiamo la garanzia che questo non succeda di nuovo. Certo. Anche se adesso c'è una mentalità diversa, c'è un'attenzione diversa, ci sono le pene del ministro Orlando in arrivo, che non abbiamo ancora capito quali sono, eccetera, perché in 12 minuti di intervista non siamo riusciti a capirlo, ma non importa. Adesso cambiamo argomento, parliamo di una cosa che riguarda Milano, e salutiamo Francesco Zaini del gruppo Genitori del quartiere Tortona Solari. Buongiorno Francesco. Buongiorno a lei, agli ascoltatori. Non so se ho detto buongiorno. Bene Zaini o Zaini. Perché... Zaini ha detto benissimo. Zaini, perfetto. Allora, tra qualche giorno sarà l'anniversario del 7 novembre del 2011, quando un ragazzino di 12 anni, Giacomo, morì in via Solari per un incidente. Lui era in bicicletta, e non vogliamo tornare su questo, quanto ragionare su cosa è stato fatto dal comune, ma soprattutto dalle associazioni di genitori e della scuola dove andava Giacomo, per fare che cosa? Per risolvere la questione del traffico, della mobilità, per aumentare la sicurezza dei ciclisti, dei pedoni in una città come Milano, dove muoiono moltissimi pedoni e ciclisti. Questa volta il comune vi ha preso sul serio, voi ci avete messo il cuore in questa cosa qua, è molto tempo che lavorate a un progetto. Francesco, io ho sintetizzato così, a che punto è, e se ho detto bene anche le motivazioni di quello che state facendo, questo progetto? Sì, lei ha sintetizzato sicuramente bene. Diciamo, noi siamo stati profondamente colpiti da quella vicenda, perché come puoi immaginare, noi siamo tutti genitori, siamo genitori di ragazzi della stessa età, e un po' tutti abbiamo pensato che quella vicenda, quell'evento avrebbe potuto capitare a chiunque dei nostri figli. E in qualunque città, tra l'altro, perché Milano è particolarmente tentacolare, ma queste cose succedono purtroppo in tutte le città. Il tema della mobilità dolce nel centro delle città, a rispetto di pedoni e ciclisti, è un tema che riguarda tutte le città. Parliamo di Milano, ma è come se parlassimo di qualunque altra città, Francesco. Sì, è vero che Milano è una città che non è particolarmente amica dei ciclisti. Tuttavia, diciamo, noi siamo partiti dalla nostra situazione particolare. È stato un incidente che è stato causato da una serie di eventi, purtroppo, come posso dire, molto particolari, adesso non entro nel merito, nei dettagli, ma che ci ha fatto capire che solo attraverso diciamo una viabilità più sicura per le biciclette, per i ragazzi che vanno in bicicletta a piedi, è possibile risolvere questo problema. E questo, secondo noi, è un problema sì di sicurezza, ma non soltanto, è un problema anche di vivibilità di una zona, di un quartiere. Noi ci siamo posti l'obiettivo, quindi, in prima battuta, di trovare gli strumenti per migliorare, sì, la sicurezza dei, perché, nostri ragazzi. Sì, adesso poi entreremo nel merito anche del progetto che voi avete messo a punto e per il quale il comune vi sta prendendo sul serio, e ci dovrebbe essere, adesso ce lo dirà lei, Francesco, una sperimentazione per i due aspetti, cioè aumentare la sicurezza, ma a quel punto anche garantire una migliore vivibilità, perché no? Perché in un quartiere dove si cammina meglio, ci si muove meglio, tra un parco e l'altro, dove ci sono, beati chi ce l'ha i parchi, o tra una ciclabile e l'altra, si sta sicuramente meglio, oltre, certo, che essere più sicuri. Tra l'altro, intanto devo dire una cosa, avevamo chiesto di intervenire anche all'assessore Pierfrancesco Maran, assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano, che al momento è irreperibile. Ora mi assumo io la responsabilità di quello che dico. Perde un'occasione importantissima l'assessore Maran, non so per quale motivo, spero non abbia fatto un incidente, perché sarebbe l'unico motivo che lo giustificherebbe da non essere qua in questo momento. Volevamo farvi incontrare perché c'è una collaborazione tra voi e il Comune per arrivare poi a un progetto che, tra l'altro, potrebbe essere un progetto nuovo per Milano ma anche per l'Italia: mobilità dolce con limiti di velocità, eccetera. Lo vediamo dopo il traffico, però. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccolo, di nuovo con Francesco Zaini del gruppo genitori del quartiere Tortona Solari di Milano. Prima di farci l'elenco, il dettaglio di quelle che sono le misure che voi avete messo a punto, le idee, insomma, per questa mobilità dolce, i limiti di velocità, gli attraversamenti pedonali, possiamo anche immaginarlo. Mi dice se il comune vi sta, diciamo, prendendo sul serio, e quando questa sperimentazione potrebbe partire, se partirà mai. Se dobbiamo giudicare da come si è mosso, perlomeno al telefono. Oggi l'assessore, direi mai, perché l'assessore Maran, che non, aveva detto che sarebbe stato presente in trasmissione, né lui né l'ufficio stampa rispondono, non è un bel atteggiamento. Zaini. Ma intanto io inizierei dagli aspetti positivi. Sì. Allora, come dicevo prima, noi siamo rimasti molto colpiti da questa vicenda e abbiamo deciso di reagire in una maniera, diciamo così, non convenzionale. Sicuramente c'era un problema di mancanza di strumenti di avviso di sicurezza nel caso dell'incidente di Giacomo. Noi avremmo potuto protestare e fare, diciamo, i cortei sotto Palazzo Marina. Sì, però non ci faccia la cronistoria di quello che è successo. Veniamo ad oggi. Il Comune vuole fare una sperimentazione di questa vostra proposta? Mi sta aiutando o no? Allora, quello che volevo dire, è che noi abbiamo sviluppato questo progetto, sì, e il Comune ce l'ha accettato, l'ha fatto proprio, sì, e questo noi lo apprezziamo molto. Io devo dire che, benissimo, fino allo scorso aprile-maggio, sì, noi abbiamo avuto una forte rispondenza da parte del Comune e il nostro progetto è stato poi modificato per, sì, tener conto anche di una serie di altri fattori che riguardano la viabilità del quartiere. Quindi razionalizzando alcuni elementi. Cioè voi avete fatto una proposta e il Comune l'ha emendata, diciamo così. D'altra parte è giusto, sì, il Comune, sì, che deve poi decidere. Sì? Diciamo, la base del lavoro è stata la nostra. Dopodiché è intervenuto. Che cosa prevede questa base del vostro, allora, lavoro, e che cosa prevedono gli emendamenti del Comune? Sì. Intanto vorrei partire dal fatto che quello di cui stiamo parlando è una parte di una serie di interventi che noi abbiamo proposto di più ampio respiro. Adesso non entrerei in questo. Ma diciamo bene qual è il progetto, che la gente vuole sapere qual è il progetto. Perché fino ad ora non abbiamo capito moltissimo, sì. Allora, il progetto è questo sostanzialmente. Allora, sì, noi vogliamo fare in modo che i nostri ragazzi, ed eventualmente per quanto riguarda le scuole primarie o dell'infanzia, i genitori anche che portano a scuola i figli, possano farlo in bicicletta. Oh. Allora, noi abbiamo anche fatto un'analisi, una ricerca da cui risulta che alla scuola media soltanto il 7% dei ragazzi andava a scuola in bicicletta. Questo per noi era assolutamente, come posso dire, negativo. Ma questo c'è già adesso però il permesso di andare in bicicletta. No, ma però capisci che è il fatto di fare un quartiere dove si va piano, giusto? Con i rischi che si corrono, appunto, in bicicletta, è un quartiere a 30 km all'ora, questo è il progetto, giusto? Allora il progetto non è solo legato alla riduzione della velocità, perché la riduzione della velocità è strumentale, diciamo, a quello che poi noi avevamo in testa, e cioè quello di creare dei percorsi ciclistici sicuri che noi non abbiamo chiamato piste ciclabili per un fatto molto semplice, che volevamo proporre un intervento a basso costo che potesse essere realizzato in tempi brevi. Cioè anche senza piste ciclabili, che invece sono una spesa. Le piste ciclabili costituiscono una spesa abbastanza pesante, sì, comportano, diciamo, la costruzione di barriere anche di cemento, comunque. Vabbè, diciamo, quindi voi avete detto anche senza piste ciclabili possiamo. È per questo che è piaciuto molto al Comune, direi. Andiamo. Allora, il punto effettivo è questo: noi abbiamo detto questo. Allora, ci sono alcune strade che sono sufficientemente larghe per spostare di un metro e mezzo verso il centro della carreggiata le auto in sosta, quindi restringendo, sì, la carreggiata, non perdendo sostanzialmente, sì, posti auto, per far passare ma le biciclette, creando un corridoio per le biciclette. Perfetto. Fra le auto in sosta e il marciapiede. E questa è un'idea, e questa il Comune l'ha fatta sua, è una di quelle cose che ha fatto sua? No? Il Comune l'ha fatta sua, benissimo, sì, con alcune modifiche, sì, però fondamentalmente l'idea l'ha fatta sua. E il secondo aspetto che, sì, noi abbiamo voluto sottolineare è che dovesse esserci, altri paio di aspetti, deve esserci una maglia abbastanza stretta di percorsi, perché un unico percorso che poi non si collega a destra o a sinistra con, beh, le varie, certo, scuole. Ma mi scusi, io non ho capito, è una pista ciclabile, cioè qual è la differenza da una pista? Creare un corridoio fra le automobili in sosta e la strada non è una pista ciclabile, mi scusi l'ignoranza. Guardi, la differenza sta nel fatto che si può costruire con molti meno soldi e molto più velocemente. No, ma in realtà l'ha spiegata la cosa, Zaini, altre misure l'ha spiegata, perché si tratta invece che di una pista ex novo, di uno spazio creato sulla strada per passare. Altre cose che avete pensato insieme al Comune di fare, ce le racconti anche ai non milanesi, che così ci vengono delle idee anche per le altre città? Che cosa si può fare per migliorare la viabilità? La costruzione di questa maglia di percorsi fra le scuole, per i percorsi casa-scuola e altri centri di aggregazione dei ragazzi, insieme con la limitazione a 30 all'ora, è un fatto già rivoluzionario per un'area così grande che dovrebbe acquisire, diciamo, sicuramente maggiore visibilità. Questo punto è importante, però, perché lei lo sminuisce un po', però in realtà poi gli automobilisti su questa cosa sono interessati a saperlo. Il progetto 30 km all'ora fa parte delle misure che il Comune si è impegnato a fare in quella zona? Sì. Guardi, noi peraltro ci siamo inseriti, noi quando abbiamo iniziato il progetto non lo sapevamo nemmeno, ma il Comune aveva in programma di istituire zone a 30 all'ora. Ora, noi sostanzialmente abbiamo dato un contenuto ulteriore a questo concetto, nel senso che l'istituzione delle zone a 30 all'ora sicuramente è diciamo un passo importante nella direzione che intendiamo noi, ma secondo noi il fatto semplicemente di mettere dei cartelli per inasprire il limite di velocità da solo non è un elemento sufficiente per raggiungere gli obiettivi che noi avevamo in testa. Però può aiutare, insomma, questo sì. No, aiuta, sono due misure sinergiche, assolutamente. Una senza l'altra, secondo noi, non funziona. Per cui è importante che i cittadini sentano questo come una cosa propria. Io stesso sono automobilista, ovviamente cerco sempre di spostarmi da una parte all'altra della città nel minor tempo possibile. No, anche quindi... perché sì, certo, ma anche perché poi onestamente non è che si vada molto più veloci che 30 km all'ora. Spesso, qual è la velocità massima consentita in città a Milano? Allora, la velocità come tutte le città è 50 km all'ora. Ah, 50. Il punto è che nelle strade... No, perché scusi, devo fare una... Non ho neanche la patente, Gabardini, quindi non avendo la patente queste cose non le sa. Tutti gli altri 58 milioni di italiani lo sapevano. Comunque. Ecco. No, perché mi sembrava che fosse già 30 in città, a dire la verità. Zaini, io dico questo, magari ci risentiremo più avanti quando entreremo nel vivo di questa sperimentazione. Adesso abbiamo accennato, siamo anche a ridosso dell'anniversario della morte di Giacomo. Era giusto anche ricordare questa cosa qua. Che verrà ricordato nella sua media Carlo Porta con 5 minuti di raccoglimento. C'è ancora un grandissimo... sentimento. Immagino. Intanto dico di nuovo all'assessore Maran, che ha perso una grande occasione per essere qua, quantomeno non doveva promettere di esserci, volevo farvi parlare per sentire proprio questa sinergia tra le associazioni dei cittadini, dei genitori e tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto di Milano, ma che ripeto credo che sia una cosa interessante per in generale per la mobilità nuova, e il comune, l'assessore, che invece non si è presentato. Continuate a lavorare, spero proficuamente, grazie intanto, buon lavoro. Grazie a lei e poi ci occuperemo delle misure più strutturali di cui non abbiamo parlato. Alla prossima volta, grazie. Noi abbiamo dedicato comunque quasi 10 minuti a questo approfondimento, però di quello che siamo riusciti a dire dipende anche da quello che il nostro interlocutore ha detto. Io capisco che c'è molta prudenza, perché se si usa una parola pista ciclabile piuttosto che attraversamento, limite di velocità piuttosto che tetto di scorrimento e tutto quello che vuoi, si incorre in rischi poi politici, interferisce con l'associazione il comune, sono trattative lunghe, faticose, evidentemente, quindi c'è anche molta prudenza, però se dobbiamo spiegare agli ascoltatori di cosa stiamo parlando bisogna essere precisi. Noi le domande le abbiamo fatte, le risposte poi le dovevamo dare l'assessore e Zaini. L'assessore non c'era, Zaini ha fatto del suo meglio e qualcosa ci abbiamo capito. Vediamo un po' adesso con gli ascoltatori dove andiamo a parare. Rita da Novara, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei voleva intervenire, credo, anche per il concorso, per vincere i biglietti Andy Warhol. Internet salverà il mondo o no, secondo lei? Ma potrebbe anche non riuscire a salvare il mondo, però inciderà sicuramente sulle coscienze di molte persone, se riuscirà ad aprire le menti in un certo senso. Quindi lei è più un sì o più un no? Ma io è più un sì, se vuole le dico anche quello che penso io. Internet salverà il mondo se l'obiettivo sarà proprio tutti connessi per un futuro di pace, se riuscirà a presentare l'evidenza di un mondo che ha completamente perduto il senso della vita come bene da vivere. Va bene, quindi lei dice sì perché con la connessione si può favorire la pace nel mondo. Grazie Rita. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Volevo partecipare sia per il concorso sia per chiedere fare una domanda rispetto alla cancelliere, ecco. Per quanto riguarda il concorso, niente, sono un po' pessimista. Io la mia idea è che l'umanità non l'ha salvata la ruota, non l'ha salvata il petrolio, nemmeno l'elettricità. Cioè, secondo lei andiamo peggiorando, non andiamo migliorando? Siamo tutti vivi, però. No, tutti no, purtroppo, ma... No, nel senso che andrà avanti, questo mondo andrà avanti a barcamenarsi in questo modo, nonostante le ripetute innovazioni tecnologiche. Ma e internet è una di cioè lei dice internet è una tecnologia, le tecnologie non ci salvano la vita. Bene, no. Antonio, invece, l'uomo salva se stesso. Invece sulla cancellieri che cosa voleva dire? No, questo abbiamo capito. Sulla cancellieri. Un attimo capire se era possibile sapere il nome anche delle altre persone per cui la cancellieri è intervenuta per motivi umanitari, perché altrimenti è sempre la solita il solito paravento dove i politici si nascondono così, senza proteggendo se stesso, la propria cerchia, le proprie amicizie. Non vorrei usare sempre lo stesso termine. No, ma ha ragione, l'ha detto anche il direttore del Messaggero, Cusenza, che abbiamo avuto stamattina. Ha detto, se lei davvero avesse dovuto rispondere a tutte le domande che lei dice di aver ricevuto, passerebbe la vita al telefono, probabilmente, visto che i casi, insomma, i carcerati quanti sono? 60.000, 70.000, non lo so. E quindi e lei giustamente dice a questo punto ci faccia i nomi delle persone per cui si è interessata. Ha ragione, è una domanda legittima. Antonio, vuole dire qualcos'altro o ci fermiamo qua? No, basta, se dopo diventa uno sfogo. Benissimo, grazie, ottimo, arrivederci. Sentiamo ancora un'ascoltatrice che chiama da Milano, poi facciamo la pausa. Buongiorno a Diana. Buongiorno, non partecipo al concorso, volevo soltanto, se è possibile, dire una cosa, fare un'osservazione sul discorso della viabilità dolce. Sì. Ecco, io ho sentito questa cosa del limite di chilometri a 30 all'ora. Ora, secondo me basterebbe il limite attuale, che è quello di 50 chilometri orari, per salvare la vita di molti ciclisti e pedoni. Il problema è che... Come? Come? Rispettando questo limite. Cioè dice che si va in realtà più veloce. Questo limite venga controllato. Io parlo da un quartiere, che è quello di Milano, zona fiera, dove ci sono moltissimi parchi, moltissime zone verdi, si potrebbe andare perfettamente in bicicletta perché le strade sono larghe. Non è possibile che le macchine streccino nelle vie a sempre a velocità elevatissima. Quindi lei dice facciamo rispettare prima il limite dei 50. Certo, va bene. Del comune. E soprattutto un appello agli automobilisti che si autoresponsabilizzino, perché non si può viaggiare ignorando le strisce pedonali. Non va bene, questo è un appello che facciamo, sperando che non cada nel vuoto. Diana, però le chiedo una cosa: oltre a auspicare giustamente il rispetto dei limiti esistenti, lei un inasprimento, cioè un irrigidimento, o se vogliamo una mobilità più dolce a 30 km all'ora, la gradirebbe o no? Pensa che sia... dovremmo adeguarci a norme che sono oramai a livello internazionale già una realtà stabilita. E quali sono queste norme? Non ci sono. Però il nostro problema è che noi possiamo anche stabilire norme più severe, ma non ci sono controlli. Va bene, va bene. Grazie Diana, lei giustamente, cioè, possiamo anche fare il limite a 10 o a 20. Prima di occuparci del limite, occupiamoci che qualunque limite però decidiamo di mettere dopo se non ci sono rispettato. I vigili, non vengono fatti rispettare, diventa una ennesima norma italiana. È inutile e non ha tutti i torti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese, but that does not mean that our hearts are not strong. Just like the Phoenix, we'll fucking roll up again, yeah. That's not the Phoenix, we'll roll up again. Rise the Phoenix, hai sentito che scelta musicale? Bellissima. Dai, poi troviamo tutti i link sempre sulla pagina internet di Si può fare sul sito radio24.it, perché parliamo della Phoenix Pharma, ma anche perché parliamo dell'Araba Fenice, cioè della rinascita delle imprese in Italia grazie all'impegno in prima linea dei lavoratori, come succede appunto alla Phoenix Pharma. E noi abbiamo convocato Salvatore Manfredi, che è il presidente. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Parliamo di aziende, anche questa settimana abbiamo avuto tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico, l'Alcoa, sono tante le fabbriche che stanno chiudendo, che hanno già chiuso, che stanno cercando di sopravvivere con aiuti, incentivi, con piani di ristrutturazione. Qualche giorno fa la Indesit ha annunciato una riduzione del piano di esuberi, per esempio, per fortuna ogni tanto accade, la Whirlpool in Lombardia, notizia di due giorni fa, rilancia grazie a un protocollo firmato con il Presidente Maroni. Ci sono però aziende che non ce l'hanno fatta. Aziende che però non ce l'hanno fatta, ma ce la stanno facendo con l'ingresso in campo dei lavoratori, come è accaduto nel vostro caso. Manfredi, a quando risale il vostro ingresso, diciamo così, al posto della vecchia proprietà, che era una proprietà autorevole perché è una multinazionale? Sì, esattamente, è una multinazionale del farmaco americana, che decise più o meno ad aprile del 2011 di chiudere tutte le sue attività commerciali in Europa, mandando a casa circa 500 lavoratori, di cui oltre 150 in Italia. A quel punto ci si è guardati un po' in faccia, un po' di persone, abbiamo detto che cosa dobbiamo fare, peraltro persone diciamo con età media intorno ai 40-45 anni,

Ma sa, nella vita bisogna in qualche modo provocarsi il futuro, non aspettarlo perché cali dal cielo col paracadute, e quindi sono scelte poi opinabili, ma fino a un certo punto, ma ognuno le fa perché le vuole fare. Comunque a questo punto, insomma, il vostro futuro produttivo lei lo vede abbastanza possibile? Lo vedo possibile. Come dicevo, siamo sempre in una fase molto delicata, perché di fatto siamo una startup partita da zero fatturato. Sì. E quindi bisogna sempre stare lì sul chi va là a cercare di rimpinguare il portfolio, di trovare nuovi prodotti, di eventualmente andare a costruire nuove linee di vendita. Cioè bisogna pensare comunque andare a ricoprire quelle nicchie che molto spesso vengono lasciate dalle multinazionali che si sono concentrate ormai su prodotti, diciamo così, giustamente dal loro punto di vista, ad altissima redditività. Per cui noi cerchiamo un po', se vuole, come quei battaglioni d'assalto che in qualche modo vanno, sì, a occupare spazi lasciati liberi dagli altri. Questa è un po' la nostra strategia. Piano piano credo che riusciremo a ottenere quello che è l'obiettivo primario, cioè nel 2016 arrivare, avvicinarci a 10 milioni di euro di fatturato. Magari in bocca al lupo per questo. Senta, facciamo un po' di training autogeno. Ci dia questo messaggio, questa dichiarazione: salvare le aziende dal fallimento si può fare, noi l'abbiamo fatto, lo usiamo anche per il promo del programma. Via. Salvare le aziende dal fallimento si può fare, noi l'abbiamo fatto. Bravi, e complimenti. Ottimo. Perché è la verità, l'ha detto così, ma è la verità, nessuno ci crede perché sono pochi casi in Italia, però ci sono, è giusto parlarne e dare anche l'idea a chi è in difficoltà in questo momento, non che loro siano fuori dai guai, però sono già un passo in avanti che si può fare. Grazie Salvatore Manfredi, presidente. Grazie a voi, buona della giornata. Phoenix Pharma. Grazie mille. E questa era l'iniziativa, ne racconteremo delle altre nelle prossime settimane. Risentiamo un po' gli ascoltatori? Certo. Vediamo un po' se ci sono altre risposte. Definizioni. Su internet. No, risposte. Salverà il mondo, sì o no? Luigi da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Che senta, ci dice? Io a proposito di internet avrei una, diciamo, una mia idea da esporre, ed è questa. Cioè, non è che in senso lato internet potrebbe salvare il mondo, sicuramente potrebbe intervenire positivamente su alcuni settori, ad esempio il settore scientifico, il settore, diciamo, della cura e della prevenzione delle malattie, perché se è vero che internet è un luogo di interazione e noi siamo abituati a ragionare sempre come, diciamo, un fatto ludico, insomma. Di sì, Luigi, però non la facciamo troppo lunga e concludiamo. Lei si sbilanci, sì o no e perché? Però in 10 secondi. Perché internet permette di far passare velocemente una serie di notizie, una serie di studi, una serie di... Quindi è più un sì che un no, perché la velocità consente di fare passare l'informazione. Grazie Luigi. Sì. Francesco dalla provincia di Milano, dobbiamo essere un po' veloci, sennò ne sentiamo troppo pochi. Sì. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, poco fa sentivo il discorso delle velocità, il limite di velocità per le città, no? Sì. Ecco, pensavo, siccome gli esseri umani sono portati comunque sempre a trasgredire, chiamiamoli ordini o doveri e così via, come mai non si pensa di mettere dei limitatori di velocità sia sulle auto che sui cartelli stradali, dove ti dice qui è 70 all'ora, tu più di tanto non puoi andare perché la macchina ti si blocca. E come funziona? Un limitatore che la macchina... voglio dire, siccome abbiamo una tecnologia tale che si riesce a comandare qualcosa sull'auto attraverso dei segnali posti sui cartelli. Ma lei è un ingegnere, cosa fa nella vita? No, mi sembra molto difficile. Non sono un ingegnere, sono uno dei tanti che con tutta questa tecnologia non si riesce a capire, perché se io sto andando a 100 all'ora e il cartello dice 90, il limitatore di velocità ti blocca la macchina. Ma che cos'è il limitatore di velocità? Una cosa che uno ha dentro la propria macchina? Ma non lo sa neanche Francesco. Senta, vuole rispondere invece su internet, vuole dare una definizione, visto che chiama da Milano, magari va alla mostra. No, non interessa. Grazie. Grazie Francesco. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Un saluto allo stagista, preferivo la zanzara con voi. Ah, grazie. Grazie mille. Apprezzamenti per lo stagista, Gabardini. È sempre un piacere. Andiamo al dunque, viabilità dolce. Allora, Io reputo che sia una grandissima cavolata, nel senso che 30 e 50 non fa la differenza. La differenza fa semplicemente rispettarle o metterci nelle condizioni di rispettarle. Va bene, un po' sulla linea dell'ascoltatrice di prima, che diceva sì, prima facciamo rispettare i limiti, quelli esistenti. Guarda, a me nel 2004 hai tirato la patente per i piloti. E anche la macchina? Sì, ancora sì. No, era prima, molto prima. Ah. E comunque sì, mi è servito. Detto questo, tutto l'inasprimento è che è servito. A trovare sempre l'escamotage per far sì che poi dopo non si rispettano le regole. Cioè, io un momento, tutto... l'hai servito? Cioè, ti è servito o non ti è servito che ti abbiano ritirato la patente? Sì, a me è servito tantissimo, ma reputo che andava benissimo già il mio metodo. E perché me l'hanno ritirata? Semplicemente perché ero un ragazzo e perché la volante aveva l'etilometro. Vabbè. Cioè, c'è la regola, mettiamo... 100 volanti, 100 chilometri, fine, mi fermano. Sì, è il tema dei controlli che in Italia sappiamo che sono carenti. Perché Marco, scusa perché vogliamo farti intervenire anche su internet, forse volevi dire anche tu la tua risposta. Su internet reputo che sia uno strumento, cioè non penso che sia la panacea di tutti i mali, è uno strumento che senza dubbio può aiutare. Quindi più un sì o più un no, sì. Ma alla fine sì, nel giusto modo, nella giusta maniera. Va bene, grazie Marco. Condivido, tutti ascoltatori condivido. Molto moderati su questo tema. Cioè nessuno che ha detto no, non serve a nulla. Ma è perché è un mezzo sostanzialmente. Però Bill Gates ha detto una cosa importante. Ha detto che per i vaccini, per combattere la malaria, internet non serve a nulla. E quindi ha detto una cosa precisa, sì, Bill Gates. Ma è una provocazione, nel senso, come per dire, non verrà da lì la risposta, ma verrà da degli scienziati. Però che serve, come dire, i libri non servono a nulla. Che c'entra? I libri comunque... tramandano il sapere allo stesso modo internet. Comunque, che è un mezzo. Io ho due risposte, forse me ne manca ancora una per essere soddisfatto, come qualità delle risposte. Poi fra poco diremo anche chi vince i biglietti. Facciamo una pausa per il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Se non te scegli mai delle radici catieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scegli mai delle tue decaglieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo talentini dell'umano cittadini, radicali all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in giusto stile, oce culli giamaicani. Dimmi delle tue decasta pieni. Yo, è il mio dello talento e quando può non parlo dialetto, e non vede filo no, che l'italiano non lo saccio. Casa me nitto con rifletto, parlo lo giamaicano scitto, perché l'importante è questa in un poco di tutto, anche se di tutto abbiate me ne butto, ma sarà cosa mente. Beh, l'avrete capito, siamo in Puglia e in particolare andiamo a Lecce, città candidata capitale europea della cultura per il 2019. Prosegue il nostro viaggio nelle città italiane candidate a questo importante appuntamento. Sarà sicuramente una città italiana, lo sappiamo già, c'è una lista, ne abbiamo sentite molte. Oggi sentiamo Lecce e chiediamo al sindaco di Lecce, Paolo Perrone, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. A che punto siamo intanto della trafila? Dovrebbe uscire la short list, no, delle città? Sì, la prossima settimana ci saranno le audizioni, nel senso che le varie città verranno sentite dalla commissione e i primi giorni di gennaio dovrebbe venire fuori questa short list. Perfetto, quindi abbiamo ancora tempo per sentire, perché abbiamo sentito Ravenna, Bergamo, fino a gennaio possiamo Aosta, andare. Palermo, però ne mancano ancora molte, abbiamo tempo per sentirle tutte. Oggi Lecce, cosa vi aspettate da questa candidatura? Perché quando si parla di grandi eventi, a volte si dice sono più le spese che si fanno per preparare il grande evento di quello che poi sono il ritorno economico vero. Nel vostro caso, sindaco? La verità, la nostra è partita come una sfida così, all'inizio era un po' un azzardo, anche stato solo uno slogan, poi dopo ha preso corpo, l'appetito è venuto mangiando, la comunità dei leccesi ha condiviso questa iniziativa. La nostra è una piccola città del mezzogiorno, però ormai conosciuta e riconosciuta a livello nazionale e non solo. È una città meta di importante turistica ed è conosciuta per la bellezza del nostro barocco. Però scusi, certo, adesso poi lei ci farà anche proprio lo spot del perché, certo, bisogna scegliere Lecce, certo, perché sennò l'abbiamo chiamato per questo. Però ci risponda un pochino più in maniera stringente alla domanda sul grande evento. Se mi lascia finire le spiego. Però fra 6 minuti chiudiamo, glielo dico. La nostra è una città che è conosciuta soprattutto per la bellezza di ciò che è stato. Noi oggi vorremmo proporre un progetto che ci permetta, come dire, di farci riconoscere anche la bellezza di ciò che è la bellezza contemporanea di questa città, che è una città, non è soltanto una città del barocco, è una città molto effervescente da un punto di vista culturale. Ma non ho capito, questa è la risposta alla domanda sui grandi eventi? No, no, questa è la risposta. Questo era lo spot, il senso da... Ok, per perfetto. Quanto riguarda, per sì. quanto riguarda i grandi eventi, in Italia abbiamo avuto esperienze non molto proficue di eventi che poi non hanno lasciato nulla dietro di sé. Invece noi crediamo che se una città come Lecce dovesse essere candidata per il 2019 a rappresentare la cultura europea, sicuramente potremmo costruire una proposta culturale da utilizzare anche in futuro per rafforzare, appunto, e questa è la mia premessa, la capacità di questa città e di questa terra di essere attrattiva. Senta, doveste descrivere Lecce in 30 secondi a un cittadino di Barcellona o di Dublino o di Varsavia o di Berlino, cosa direbbe? Qual è veramente la punta di diamante di Lecce? Lecce è una città bella da un punto di vista paesaggistico, sia naturale che monumentale, ma è soprattutto una città, noi riteniamo, che ha una forte, chiara identità. Chi viene a Lecce nel Salento non viene solo per vedere le nostre bellezze, ma per vivere un'esperienza. Mm-hmm. Esperienza che è fatta di musica, voi l'avete certo. prima dato un esempio, fatto di profumi, fatto di enogastronomia, fatto del rapporto con la nostra comunità. Chi ha avuto la fortuna di venire a trascorrere delle giornate a Lecce, poi c'è sempre ritornato, quindi un senso questo lo avrà. Le posso chiedere una cosa che forse c'entra poco con la candidatura, però visto che siamo a Lecce, che cosa dice del provvedimento del sindaco di Bari, Emiliano, ah, certo. dove sono vietati quello gli sguardi di sfida in piazza? Ha sentito questa notizia intanto? Sì, sì. L'ho sentito. Lo farete anche voi? Ma non credo proprio. Michele Emiliano ci ha spesso abituato, no, a iniziative un po' stravaganti. Quindi, sì, ma perché sono codificate. Evidentemente a Bari ne hanno bisogno, qui a Lecce sicuramente questo bisogno non lo sentiamo. Ah, non c'è? C'è meno sfida a Lecce che a Bari? Ci sono meno sguardi. Meno sguardi? Vabbè, Bari è più grande, è una città metropolitana, c'è più sguardo di sfida, invece Lecce è più una città. Ma tanto Lecce non mi sembra tanto piccola, bene, lei prima diceva una città piccola. Beh, sarà la metà di Bari, no? Circa? Un terzo. Ah. Bari sono meno di un terzo. Rimandato in geografia. Amo moltissimo Lecce. Sindaco, tra l'altro, 30.000 contro 90. Potremmo dire anche che lei è il sindaco più amato d'Italia, secondo l'ultima ricerca di Lecce. Data Monitor. Beh, questa sarebbe stata una sciocca banalità. Però, cosa dire? Torniamo su questa notizia. No, vabbè, complimenti anche per questo. Forse questo servirà a dare una spinta alla candidatura per la capitale della cultura. C'è una città che lei teme particolarmente tra tutte le altre italiane? Beh, guardi, capitale europea della cultura italiane sono state fino adesso Firenze, Bologna e Genova. La prossima volta per un'italiana sarà nel 2033, quindi vuol dire che forse questa volta potrebbe troccare a una città del mezzogiorno. Viva il sud, quindi, viva il mezzogiorno! E quindi temo le candidate del mezzogiorno. Tipo Palermo, per esempio. Sì, no. Palermo, tipo Siracusa, tipo Siracusa. Matera. Matera dobbiamo ancora sentirla, Matera, forse? Dobbiamo ancora sentirla. L'abbiamo già fatta? La facciamo la prossima volta. Perfetto. Grazie al sindaco di Lecce, Paolo Grazie. Perrone. Grazie a voi. Per essere stato con noi. Abbiamo rilanciato anche la candidatura di Lecce. Abbiamo tempo ancora per qualche intervento. Sì, Angela da Venezia. Buongiorno agli ascoltatori. Sì, buongiorno. Senta, io volevo richiamare quell'intervento di poco fa dei limitatori di velocità. Oddio, sì. Auto. Anche lei voleva dire, non si era capito nulla. Lei cosa voleva dire, Angela? Io volevo dire che esistono effettivamente delle tecnologie che consentono di rallentare i veicoli, e mi riferisco in particolare ai treni, sa, quando c'è i macchinisti unici. Succede che c'è una tecnologia che se il macchinista per qualche ragione si sente male oppure non vede i segnali, interviene e frena il treno. Sì, questa solo questa cosa è un po' più facile diciamo sui treni dell'alta velocità costruiti oggi piuttosto che mettere questo oggetto su una vecchia punta. Però adesso non possiamo aprire un dibattito di ingegneria dei trasporti. Angela, lei vuole intervenire anche su internet, salverà il mondo, sì o no? E perché? internet potrebbe salvare il mondo, sì, perché diffonde informazione e conoscenza, e informazione e conoscenza sono l'unica cosa che possono salvare l'umanità. Va bene, benissimo, grazie. Oh, allora, a questo punto io ho, credo di avere, anche in base a quello che mi hanno detto Gabardini e De Luca in, sì, in redazione, Carmelo non si è espresso, Carmelo Lucella, vabbè, oggi. Allora, vincono Angela da Venezia, l'ultima, perché internet diffonde l'informazione e la conoscenza, l'unica cosa che può salvare il mondo. Marco da Milano, che dice, sì, come tutti gli strumenti può essere utile a salvare il mondo, ma anche Luigi da Alessandria, che sottolinea la velocità di passaggio delle informazioni scientifiche. Loro vincono, grazie a tutti, anche ad Andrea Piana, che ha scritto con noi il programma, Giorgio Luca, Carlo Gabardino, Alessio Maurizi, Carmelo Lucella. Ci sentiamo sabato prossimo, buona domenica a tutti, buon appetito. Possono utilizzare tutte le persone che sono a casa con la CIG, con la cassa integrazione, perché non chiediamo a queste persone di svolgere dei lavori utili per l'Italia, per gli handicappati, gli anziani, o aggiustare le scuole, aggiustare le strade, sistemare quelle cose per cui diciamo sempre di non avere i soldi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore.